Y después, ma io meglio forse io parlo italiano, no? Perché non parlo spagnolo. Sì, noi capiamo. Capite? I miei genitori erano di quelli tedeschi del Mar Nero, erano villaggi tedeschi dei cattolici durante molto tempo. Sì, di Catalina. Sì, sì. E dopo la Seconda Guerra Mondiale, Stalin ha deportato questi tedeschi per lavoro forzato. Dopo la guerra? Sì, alla fine della guerra. I miei genitori sono stati deportati ai Monti Urali per il lavoro forzato. Era un miracolo che loro sono sopravvissuti, perché dovevano lavorare nel bosco, nel freddo di 40 gradi sotto zero, e tutta la giornata, e quasi niente di mangiare. Okay. E così la metà di questi tedeschi sono morti per freddo e per fame. I miei genitori sono stati sopravvissuti, ma grazie alla fede. Mi hanno detto, grazie alla fede, sempre hanno, quando di mattina dovevano andare nel bosco di lavorare, e nessuno sapeva se ritorna vivo alla sera o no. Perché durante il lavoro, per esaurimento, tante persone sono cadute nella neve e subito congelati. Congelati. Sì, sì, sì. E quando andavano di mattina al bosco i tedeschi, erano tedeschi cattolici e luterani insieme. E durante il cammino i cattolici hanno cominciato a pregare in voce alta il rosario, in voce alta, in tedesco. E persino i luterani tedeschi hanno pregato il rosario, perché davanti alla morte anche i luterani cominciavano a invocare la Madonna. Ahora, ¿por qué hay tantos? Usted tiene una población de 70% de musulmanes en la diócesis. Uh-huh. ¿Por qué hay tantos musulmanes en un lugar como donde debería haber quizás más bien ortodoxos? Eso, sí. Y después de Monti Urali, cuando son stati liberati dopo la morte di Stalin, si sono trasferiti in Asia Centrale, dove Kazakistan, Kirghizistan, dove io sono nato. E questa regione, Kazakistan, Kirghizistan, è di popolazione indigena, di razza mongolica e di religione musulmana. Così i nativi indigeni sono musulmani, questi kazaki kirghizi. Ma Stalin ha deportato in Kazakistan più o meno 1 milione di cattolici di diverse nazioni, tedeschi, polacchi, ucraniani, lituani. E prima del tempo di Stalin in Kazakistan non erano cattolici quasi, soltanto i musulmani e russi ortodossi, ma una minoranza. Ma con Stalin è divenuto il Kazakistan la presenza della Chiesa Cattolica. O sea che Stalin è il padre della Iglesia Kazaka. E così noi abbiamo, alle volte parliamo dicendo che Stalin è divenuto il più grande missionario del Kazakistan, perché ci ha portato tanti cattolici, e con i cattolici sacerdoti. Ma sacerdoti purtroppo nelle prigioni e nella clandestinità, sì. E per esempio, quando io sono nato in quella regione non abbiamo avuto sacerdoti là. I sacerdoti sono venuti sporadicamente, raramente, non si sapeva quando viene un sacerdote. Può essere tra un anno, tra due anni, dipendeva dalla situazione. È lo che usted relatò nel libro Dominus Est. Sì, è quella storia, sì, della mia madre, ma dei Monti Urali, e poi del Kirghizistan. Ma quando sono nato, non aveva sacerdoti e la mia mamma ha deciso, la stessa, di me battezzare, perché non avevano sacerdoti. Io ero una settimana di vita e mia madre ha preso un libro tedesco dove si descrive il battesimo e l'acqua, e mio padre era presente e mi battezzò. E quando finita ha guardato al mio padre e ha domandato: io ho fatto tutto in modo corretto? E il mio padre ha risposto: non lo so. E così ha ripetuto di nuovo il battesimo. Mi ha battezzata due volte. Per essere sicura che io sono battezzato. E dopo 6 mesi è venuto un sacerdote gesuita di Lituania, clandestino, e di repente gesuita di non è valido il terzo battesimo. E poi e questo sacerdote lituano ha detto, perché erano tanti tedeschi là, alle donne: tutti i bambini che non erano battezzati da un sacerdote, portatemi questi bambini. Il mia madre mi ha portato, il padre Antonio de Gesuita mi ha battezzato di nuovo. Tre volte battezzato. Così io non ho dubbi sulla validità del mio battesimo. Signor, usted no ha pensado en escribir las memorias? Non ho tempo di fare questo, forse quando sarò in pensione. Sì. Usted ha vivido una época en el régimen soviético del que ha habido un hermetismo, se ha conocido poco la realidad y hoy hay un silencio sobre el tema. Sí. No sé si hay un revisionismo en Europa. Un revisionismo, exactamente. Pero muy tenue. Sí. Era un regime terribile, ma non si parla, no? Non si parla, già passò, è un tema già del passato che non si revisa. Sì. E l'unico malo è Hitler, no? Sì, sì, sì, sì, no, Italia non era nadie, era buonissimo, una meraviglia. E tienen libertà per evangelizzare, per esempio, a los musulmanes, allí? Sì, perché abbiamo un governo che controlla oggi tutte le religioni, no? Perché la maggioranza sono in Kazakistan adesso musulmani, perché sono il popolo indigeno, 60% forse, e poi 20% russi ortodossi, chiesa ortodossa, e noi cattolici soltanto 0,5%, nemmeno 1% della popolazione. E abbiamo 4 diocesi, un territorio immenso, e la nostra diocesi è 2 volte Alemania, Germania, per estensione. E le nostre comunità sono piccole, molto dispersi, ma il governo ancora ha conservato qualche mentalità del tempo sovietico per controllo di tutte le religioni, una legislazione restrittiva. E così, ma loro ci dicono: non abbiamo niente contro la Chiesa Cattolica, dobbiamo fare queste leggi per prevenire l'estremismo religioso. Estremismo religioso, sì, sì, sì, diciamo, sì, musulmano. Sì, sì. Non, loro non dicono, ma è musulmano. In un certo senso è buono, perché abbiamo sempre una tentativa dell'infiltrazione dell'estremismo islamico dell'Afghanistan, che è vicino da noi, Afghanistan e Pakistan. E poi ci sono sempre, vengono da noi quegli estremisti per fare quella propaganda. Ma il governo, grazie a Dio, è molto vigilante, e fa queste leggi, molto controlla tutte le religioni. Ma in pratica non ci controllano tanto, perché hanno, sapendo che la Chiesa, abbiamo un nunzio apostolico nella capitale, e questo è un pochino nostra protezione, che c'è un nunzio nella capitale stessa, relazioni diplomatiche tra il Kazakistan e il Vaticano. E, per esempio, per nominare un parroco, il vescovo deve concordare il candidato con il governo, secondo la legge. Ma noi non facciamo questo. Noi vescovi soltanto informiamo, dopo la nomina del parroco, informiamo il governo e loro sono con noi d'accordo. Così in pratica non è così male. Ma in generale io penso che è necessario questa legislazione. Per esempio loro controllano tutte le moschee, grazie a Dio. Il governo nomina gli imam per le moschee. E alle volte il ministero delle religioni, abbiamo un ministero delle religioni, per gli affari religiosi. E sono specialisti loro, vanno là, e loro scrivono il testo dell'omilia per le moschee, che l'imam deve leggere questo, non può proferire il suo proprio discorso nella moschea, per evitare discorsi estremisti, grazie a Dio. E una volta è capitato, abbiamo nella nostra città anche una sinagoga, il ministero degli affari religiosi ha confuso l'indirizzo e ha mandato la omilia per l'imam alla sinagoga. E il rabbino obbedeció? No, questo mi ha detto il rabbino. Il rabbino también escribe la omilia? No, soltanto per le moschee. Una volta abbiamo un seminario interdiocesano per tutta la nostra regione, dove io ancora insegno a 200 km di un'altra diocesi, la mia prima diocesi. Io era prima ausiliare in Karaganda, in quella diocesi, dove il seminario. E dovevamo registrare il seminario nel Ministero di Giustizia o di Affari Religiosi, e loro sempre chiedono, quando si fa una parrocchia o registrazione, la letteratura religiosa per fare una bibliografia, sì, un controllo, una sì. E hanno ci chiesto di mandare loro qualche libri che noi usiamo nel seminario, per prima di dare il permesso giuridico loro volevano controllare la nostra letteratura se non ha una cosa di estremismo religioso. Abbiamo mandato a loro il missale, la Bibbia, un libro di preghiere, il diritto canonico in russo tutto e la Summa Teologica in latino. Mandato a loro, al ministero. E dopo alcun tempo loro ci hanno risposto: abbiamo controllato tutta la vostra letteratura e approviamo. Così ha detto, sanno ben latino, perché 5 volumi di Summa Teologica in latino l'ha controllato. Los musulmanes tienen lo que llaman una doble verdad. Sí. Ellos pueden, por eso en el público eran soviéticos algunos y hacían todos los saludos a Stalin que hubiera que hacer, y en privado eran contrarios. Sí. Y eso es moral para ellos. Pueden tener una doble verdad. Las simulaciones. Sí, sí. Mark, una cosa es buena, que el nuestro gobierno está haciendo sistemáticamente incontri interreligiosi, che si chiamano incontro per la pace interreligiosa e la pace sociale. È un'idea buona. Così ci troviamo, altrimenti non incontro mai un imam o i preti ortodossi, alle volte ci troviamo, ma in questi incontri ufficiali parliamo sulla necessità di evitare l'estremismo, di conservare la pace civile, così ci troviamo. Ma con gli ortodossi, che sono, noi siamo 4 vescovi cattolici, e gli ortodossi hanno 9 vescovi, 9 diocesi, perché loro sono più che noi, sono il 20%, e loro dipendono dal patriarcato di Mosca direttamente, sono nominati di Mosca. Ma adesso hanno ricevuto un metropolita proprio, che è buono, che per la prima volta nella mia vita ho trovato un vescovo ortodosso che è così fraterno e amabile. fraterno, ci ha visita alle volte, ci invita nella sua casa. Non lo so con che intenzione lui lo fa, ma dà un'impressione buona. Ma c'è un vescovo di questi nove che era molto anticattolico prima e realmente fanatico, anticattolico. E noi abbiamo lo saputo. E una volta noi facciamo le nostre riunioni delle conferenze episcopali, alle volte giriamo in altre città e alle volte, una volta, alcuni anni fa abbiamo fatto nella città di questo vescovo ortodosso la nostra riunione della conferenza episcopale e abbiamo detto ma se noi la veniamo e non lo informiamo sarà ancora peggio per noi, farà una polemica. E là abbiamo una parrocchia cattolica, quella città, di questo vescovo. E abbiamo chiesto al nostro sacerdote cattolico di un po' di preparare il terreno, forse di andare dal vescovo ortodosso, di informarlo. E questo sacerdote ha saputo dai colleghi ortodossi, sacerdoti, che questo vescovo ama molto la vodka. Troppo. Era quasi un alcolico. E questo sacerdote ha avuto una buona idea, ha comprato una bottiglia di vodka di più cara, più di migliore sorte, in una bolsa, e è andato alla cattedrale di questo vescovo e dopo la liturgia il vescovo è salito, il nostro sacerdote si è approssimato, vestito come sacerdote cattolico. E lui l'ha visto, ha detto, tu sei cattolico, perché sei venuto da me? Molto, molto severo. Eccellenza, sono venuto per portargli un regalo. Qual regalo? Ha aperto la bolsa e il vescovo ha visto la più cara vodka. E ha risposto, penso che tu sei un buon sacerdote. Era Tommy. Tu puoi venire una volta. Venuto un'altra volta, di nuovo. Dopo la seconda volta ha detto il vescovo, ma adesso non bisogna venire in cattedrale. Può venire nella mia casa. Così sono divenuti amici. Realmente, questo parroco nostro sempre portava una vodka al vescovo e sono stati amici. Cattazione, volenzi. E quando noi siamo venuti, il sacerdote nostro è andato dal vescovo e ha detto, ma il vescovo cattolico ci invita a vostra eccellenza per un pranzo nella casa parrocchiale mia. Ma io posso garantire che durante il pranzo avrà abbastanza vodka. E lui ha risposto, vengo. È venuto. Molto severo, molto così, molto severo, serio. E cominciavano il pranzo, i russi hanno il costume che tanti quanti sono nella mesa, devono proferire un discorso di brindisi. Sì. E poi lui, secondo la gerarchia, così noi siamo stati cinque vescovi cattolici, lui l'unico vescovo ortodosso seduti, alcuni sacerdoti, e dopo la preghiera lui prima ha fatto un discorso breve, formale, e ha svuotato di una volta l'idea. I nostri altri vescovi soltanto una goccia in più, lui svuotato, il nostro parroco di nuovo riempito il bicchiere. E dopo continuate tutti questi discorsi, io ho contato i bicchieri di lui e dopo nel quinto bicchiere un altro vescovo nostro ha fatto un discorso di brindisi per la unione, per l'ecumenismo. Io auguro la unione tra il patriarcato di Mosca e il Papa, così. E questo vescovo l'ha interrotto e ha detto, ma se il patriarca di Mosca e il Papa fanno la pace, Io sono d'accordo, io ho svuotato il... sono d'accordo. E poi dopo il sesto bicchiere cominciava a essere così felice che ha posto la testa dell'ombra di un vescovo, poi dell'altro vescovo, era come un bambino felice. Dopo il settimo bicchiere cominciava a cantare, ma cantava i tipici cantici russi melancolici, sì, con lacrime, piangeva, cantava, è tipica anima russa, era felice. Dopo, quando ho finito, penso che abbia bevuto almeno 7 bicchieri di vodka, e poi ha detto: adesso vi invito alla mia casa, subito, di bere tè, non più vodka, bere tè. Siamo andati alla casa sua, bere tè. Siamo stati alla sua casa, era un palazzo di lusso, veramente, palazzo di lusso. Tutto un piano con gli appartamenti per gli ospiti. Ci ha mostrato e ha detto: ma questi appartamenti sono per voi, potete venire a fare ferie qui nella mia casa. Così siamo divenuti amici. Di questo momento sempre ci scrive per Natale, e dopo 6 mesi lui è venuto nella capitale, il metropolita ortodosso ha fatto anche una cena e ci ha invitato anche il metropolita e me. E erano molti vescovi ortodossi, penso che 20 vescovi ortodossi di Russia. E questo vescovo della vodka, diciamo, si chiama Antoni, mi ha visto, si è approssimato, mi ha baciato, mi ha detto la prima cosa: perché tu non sei venuto per fare ferie nella mia casa? Io ho detto: ma eccellenza, io sono occupato, eccetera, non vado là per bere vodka con lui. Ma in questo momento, adesso siamo buoni amici, realmente. E alle volte lui scrive: l'ultima Pasqua era un po' ridicolo, lui ha scritto una lettera di felicitazione di Pasqua, ma sempre una lettera stereotipica, come quelle che lui mandava probabilmente ai suoi confratelli ortodossi, vescovi, fosse a noi, a me ha scritto mio nome e tutto questo testo, e nella fine le auguro molti anni di fedele servizio alla Chiesa ortodossa. Attualmente come la relazione tra voi e Roma? Adesso sì, abbiamo visto che il patriarca si è trovato con il Papa, no? A Cuba, ma qua a Cuba è una cosa strana. Ma secondo un altro vescovo mi ha detto, io faccio adesso un amico, il vescovo ausiliario ortodosso della mia capitale, è molto buono con me, a volte viene clandestinamente da me, il vescovo ausiliare ortodosso. E lui è stato, mi ha detto che l'incontro del patriarca con il Papa, il sinodo dei vescovi ortodossi non hanno saputo prima, perché loro erano contrari, la maggioranza del sinodo. Ma nel fondo l'incontro era, tra noi parlando, la volontà di Putin. E se Putin lo vuole, il patriarca dice sì, faremo. Perché il patriarcato di Mosca è completamente sotto il governo, come era prima sotto lo zar, e poi durante il comunismo, voi sapete, no? I vescovi ortodossi. Se sarà papito. Sì, erano collaboratori con i comunisti. E adesso sono obbedienti al governo, questo è evidente, chiaro. E io penso che per Putin era, adesso la Russia è isolata un po' politicamente dall'Unione Europea, no? Perché non la Russia si rifiuta di far parte di questa globalizzazione di americani e di europei, il governo globale, diciamo, massonico e anticristiano. E qui Putin non lo vuole, non, penso che per questione di nazionalismo o di egemonia, non per cause religiose, ma io penso che in questa situazione dove la Russia è in Europa e isolata o alle volte demonizzata dai mass media, per Putin, per il governo, è, secondo me, è un vantaggio di avere un appoggio della più grande autorità morale del mondo, che è il Papa. E qui si deve fare qualche compromesso. E qui il Patriarca e la Chiesa Ortodossa sono strumenti della politica loro, obbedienti. Che pensa usted di Putin? Certo, Putin era un grande uomo della KGB, servizio segreto. Non conosco Putin, ma certamente lui è un politico, molto politico, no? Strategico. Si fa tutto, prima cosa per politica. Ma io penso che ha un pochino, forse ha un qualche senso di fede. Penso sì, può essere che ha. Fu bautizzato da piccolo. Sì, poi bautizzato. Si enterò hace 10 anni, se lì sì. Lo sapeva. Sì, ma non lo so se è un cristiano convicto. Non lo so, non posso dire. Sì, che va a consultare un starez. Sì, lui ha un, si diceva, lui ha un direttore sì, spirituale. Che si confessa con lui. Può essere, ma in che senso lui è profondamente cristiano non posso dire, è difficile. Ma almeno quello che lui fa pubblicamente è una dimostrazione di fede. Tutta l'Europa apposta. Sì, sì, esattamente, perché per esempio lui non ha vergogna di pubblicamente andare nella chiesa e di assistere alla liturgia e fare il segno della croce, di venerare quando recentemente la reliquia di San Nicola di Bari, che era il patrono principale della Russia, San Nicola. E loro venerano San Nicola, Dio, la Madonna e San Nicola, la Trinità. E San Nicola, quasi in ogni casa della Russia è San Nicola. E per questo queste reliquie di Bari erano impressionanti. Più che 2 milioni a Mosca hanno venerato, e anche Putin ha venerato la reliquia. E l'ha difendito il matrimonio eterosessuale, sì. In temas naturales. Naturale, al margine dello religioso, sì, sì. Más sano che Europa. Sì, más sano. Ma dobbiamo con ragioni culturali di eslavismo? Sì. O lui sta convinto che l'ordine naturale o la sì, famiglia... Sì, io penso che... Io conosco i russi perché ho vissuto con loro tanto tempo. Per l'anima russa, per mentalità orientale, l'omosessualismo è assin repugnante, assin così... Contra natura. Si contraddice anche nella mentalità pubblica, è impossibile. Per me è impossibile, anche noi in Kazakistan, quasi dal punto di vista della mentalità del popolo. La cultura popolare, sì. La cultura popolare, specialmente in Russia, è impossibile. Per questo penso che è sua convinzione personale. Come un uomo russo, non accettare queste cose, ma grazie a Dio fa queste cose. Io penso che può essere che un processo, no? la grazia di Dio può usare questi mezzi, forse lui sta in un processo di conversione, no? Non lo so, io penso a Señor, ¿será cierto que le pidió al Papa que consagrara a Rusia la Santísima Virgen? El Papa le contestó que no estaba en su agenda. No puedo decir porque no conozco esto. Pero una cosa un poco interesante, he visto en el YouTube la audiencia che Papa Francesco ha concesso a Putin. Il regalo? Il Putin ha portato una bella icone al Papa. E qui la icone, i due Papa e Putin sono al fianco. E Putin apre l'icona e la prima cosa che Putin fa, tre volte il segno della croce, tre volte, il Papa ha fatto nessun segno della croce. Le regalò un paesaggio di Roma e l'altro le regalò la Virgen di Vladimir. Io ho visto nel YouTube, che contrasto, l'antico chef di KGB, comunista, sta facendo tre volte il segno della croce e il Papa di Roma al suo fianco nessun segno della croce. Questo è tipico di Oriente, perché era il rispetto al qua, perché è l'antico cardinale di Buenos Aires, per questo. Ha quedato in la Unione Sovietica, in los países, bueno, la Unione Sovietica, ha quedato la ideologia marxista, muy impregnada la cultura de la ideología marxista, o no ha quedado nada? Porque algunos católicos que han sufrido, como dice el padre, en el comunismo, uh-huh, dicen no, Putin hace todo esto porque en realidad es cuestión de el marxismo soviético, ya era anti-homosexual, sí, el marxismo soviético, sí, ya claro, era... Claro. Dicen esto lo hace Putin porque es un comunista, digamos, ¿no? Hace lo que hizo siempre un soviético. Entonces no, como que no creen que esto sea cierto. Pero como usted dice, los signos sí, externos. Sí, ciertamente, aunque nella mia infanzia io ho studiato 5 anni nella scuola comunista, io sovietica, io conosco. Studiavano filosofia marxista, no? No, noi abbiamo avuto una materia scolastica a partire della cinque o sesta classe, che si chiamava ateismo scientifico, in tutte le scuole, ateismo scientifico, così io dovevo imparare ateismo scientifico. Ma io penso che sì, nell'Unione Sovietica, nel comunismo, loro hanno, era in quel tempo, l'omosessualismo era impossibile, no? Ma io penso che in quel tempo non per causa del comunismo, ma a causa del popolo, l'anima russa, dell'anima russa. Intendo, al revés. Per questo, non perché il comunismo era contrario all'omosessualismo, ma per la cultura del popolo. Io ho vissuto questo. E poi, ma io penso che la provvidenza divina adesso può usare questi segni buoni che sta facendo Putin, sensi buoni, per ristabilire i valori autentici della legge naturale e di diffondere il cristianesimo. Certamente lui diffonde la sua confessione ortodossa, ma può usare questo come un processo, no? Perché di Russia diviene un strumento della provvidenza divina, come in quel tempo, in quarto secolo, l'impero romano pagano è poi divenuto strumento con Costantino, mm-hmm, e altri di propagare la fede cattolica. Può essere, penso, ma è un processo. Qual è l'ostacolo più grande che per il mondo ortodosso hai per unirsi alla Chiesa cattolica? Il dogma, la liturgia, o el occidente católico que ha no un catolicismo sin rostro, decía Goricho. No, yo he avuto tanti contatti, sempre ho tanti contatti con gli ortodossi sacerdoti, quel vescovo ausiliare che è mio amico che viene clandestinamente. Loro, per loro certamente il primato di Papa. Ultimo. Ese è l'ostacolo vero, quasi unico. Sì. Vi racconto una storia. Io ho avuto, quando ero ausiliare in Karaganda, ho avuto un buon amico sacerdote ortodosso, buon amico. E lui spesso veniva, lui era molto anticattolico, un giovane sacerdote, sposato. E abbiamo trovato in questi incontri interreligiosi, io stato al suo fianco, musulmani e altri, il tema era la pace e concordia. Io sono venuto e ho detto, buongiorno, padre, voleva dare la mano, non mi ha dato la mano, ma siamo venuti per parlare sulla pace e concordia. L'imam mi ha dato la mano, il musulmano, lui no, al mio fianco. E poi, passato qualche mese, ci siamo trovati un'altra occasione, di nuovo. E là era la televisione, filmava tutto, già che poi è stato trasmesso, perché di nuovo una conferenza sulla pace e concordia. E già che lui ha visto che la televisione fa tutto, il musulmano mi ha dato la mano, anche lui mi ha dato la mano, perché è televisione, no? Ma forse con questo abbraccio, quasi forzato da sua parte, lui, dopo quando è finito, mi ha aspettato alla porta e mi ha chiesto, posso visitarla privatamente nella sua casa? Sì, può, venite. E veniva nel 25 di gennaio, conversione di San Paolo, alla fine della settimana di preghiera dell'unità, e veniva nella mia casa. Abbiamo bevuto tè, parlato, e lui mi ha, in questo primo incontro mi ha detto, io devo dirle, e non ancora era vescovo, padre, che io avevo tanti preconcetti contro la Chiesa Cattolica, ma questo mi pento adesso. Io posso visitarla regolarmente perché non ho nessuna formazione teologica. No? Lui era poliziotto, un giovane poliziotto. Il parroco ha detto, perché lui veniva spesso nella messa con la moglie, il parroco ortodosso ha detto, ma sa, tu sei un bravo uomo, pio, abbiamo bisogno di sacerdoti. Io dico che è la volontà di Dio che tu sei sacerdote. Pronto? E per loro quello che il sacerdote dice è la volontà di Dio. Lui mi ha detto, non avevo vocazione sacerdotale. Ma il parroco ha detto, e andava dal vescovo, e hanno fatto un corso di due mesi di catechismo, soltanto catechismo, e come incensare, come cantare, fare liturgia, e non più. Io tenevo compagni in Roma, un sacerdote che mi spiegava che ellos non studiano teologia, studiano los ritos liturgici, ritos, e sì, hanno sì. Diritto canonico. Sì. Nada más, non studiano nemmeno il diritto canonico. Non hanno diritto canonico nemmeno. Così è stato ordinato, senza questa minima preparazione, e dopo l'ordinazione, era là con quel monastero, con il vescovo, lui mi ha raccontato, veniva nella sua stanza, cominciava a piangere, e ha detto, ma che cosa io ho fatto? Io ho ricevuto il sacerdozio, ma io non sono degno. Non sono preparato. E ha sentito tutto il peso. E ha quasi fatto un collapso, diciamo, di nervi, no? Come si dice, di psicologico. Ha pianto. E è andato dal vescovo e ha detto, Eccellenza, io non posso esercere il sacerdozio. Io non sono preparato. Non mi sento degno. Il vescovo ha detto, sono cose pazzi che tu dici, io ti comando in obbedienza andare a servire, pronto, così è andato. Così non aveva formazione, e lui mi ha chiesto di dargli formazione teologica, e così spesso due volte al mese veniva da me, e durante per te eccetera, io gli ho dato qualche elementi della teologia. E dopo tre anni di questi incontri regolari nella mia casa, lui ha detto, adesso posso accettare tutto del cattolicesimo, mi mancano soltanto due cose, il dogma dell'Immacolata Concezione, che noi ortodossi non accettiamo, e il primato dei Papa, certo. Io conosco la liturgia loro, perché ho anche celebrato la liturgia bizantina, e ho detto a lui: padre, voi nella liturgia dopo la consacrazione cantate alla Madonna un inno, dignum et justum est, degno e giusto lovarti o santa la madre di Dio, più perché tu sei più bella, più pura che i cherubini e i serafini. Mm-hmm. Ho detto: ma vedi, se una creatura è più pura che i serafini e i cherubini, come può avere la mancia del peccato originale? E lui ha detto: mai ho pensato in questo, devo riflettere. Riflette. E dopo andate in casa, perché lui veniva due volte al mese a me, non sopportava. Dopo tre giorni mi ha telefonato: padre, accetto la Immacolata Concezione, chiaro, perché ho riflettuto su questo inno. E dopo abbiamo cominciato a parlare sul primato di Papa, alcun tempo. E poi dopo un tempo sempre veniva di notte, come il Nicodemo. E poi una volta a notte, era già quasi mezzanotte, io lo accompagnavo al suo macchina, e lui mi ha detto: senti padre, adesso accetto il primato, ma soltanto nella testa mia, ma non nel cuore. Tipicamente anima russa, anima russa, non nell'anima mia, non nel cuore, ma nell'intelletto sì, perché è logico, bisogna avere un primato, perché lui era un uomo molto logico, questo sacerdote. Y sí, hoy a nosotros nos pasa algo parecido. Aceptamos en la testa, pero no en el cuerpo. Ah, sí, sí, sí. Ma y poi y lui ha detto: ma se io accetterò il Papa, che cosa, che sarà? E io ho detto: lei sarà cattolico. Cattolico. Ah. E dopo alcun tempo di questo io sono stato nominato vescovo, ausiliare. E lui era il primo che veniva di felicitarmi. E mi ha portato subito un regalo. E sapete che regalo lui mi ha portato? Vodka. No. Mi ha portato un regalo, la corona di spine. Una riproduzione originale della Stella Santa, la corona di spine del Nostro Signore. Questo era il mio primo regalo per la mia nomina episcopale, la corona di spine. Adesso capisco sempre più perché. Monsignor, perdón, yo le quiero preguntar, primero si usted ha tenido posibilidad de hablar con el Papa Benedicto XVI y qué piensa él respecto de la situación actual de la Iglesia, y segundo, ¿qué cree usted si cuando él renunció previó la hecatombe espiritual que se venía después o no lo alcanzó a prever? No, adesso soltanto finisco questo brevemente y rispondo a lei. Quindi, questo sacerdote, ma io ho stato ordinato a Roma vescovo, nelle Basiliche di San Pietro, dal cardinale Sodano. Mai ho pensato a questo, perché quando sono stato nominato vescovo, il nunzio mi ha detto: lei ha la libertà di scegliere la data, il luogo e tre consacratori. Lei ha la libertà. Pronto. Così io ho pensato, ho scelto la data, il luogo là in Kazakistan e tre vescovi di Kazakistan. E dopo il nunzio ha detto: quando lei ha scelto mi telefoni. E prima che io potessi informare il nunzio mi ha telefonato: eccellenza, lei ha già pensato? Sì, ho detto. Ma adesso ho telefonato il cardinale Sodano e ha detto lui stesso voleva ordinare la vescovo a Roma. Ma lei è libero, ma sarebbe una una gioia per il cardinale. Gli ha detto, ma bene, se il cardinale sarebbe contento, io sono d'accordo. E così non era la mia scelta. Io non ho scelto né la data, né il luogo, né i consecratori. Hanno scelto altri per me. Non ho scelto. Così io dovevo andare a Roma per la mia consecrazione episcopale. E ho pensato, con questo sacerdote, invitarlo o no? Io ero in dubbio. Perché lui è ortodosso? Non perché lui è ortodosso, ma perché il vescovo di lui, adesso un altro vescovo, quello era molto anticattolico. E non voleva fare problemi, perché lui mi ha detto che da loro, quando il sacerdote si apparte dalla diocesi più che 2 settimane, il vescovo deve dare un permesso. Fino a 2 settimane il vicario generale dà, senza vescovo. E così, quando abbiamo bevuto tè, io ho avuto l'interna convinzione di invitarlo. Ho detto, padre Igor, la invito per la mia ordinazione episcopale a Roma. E lui era così felice, lui mi ha risposto, questo aspettavo. Così siamo andati via Mosca con un gruppo di 20 persone, e lui anche. E lui era in civile, non come sacerdote, perché lui era quasi clandestino, no? Perché il vescovo non sapeva, il suo vescovo, non sapeva che lui andava a Roma. E siamo stati nell'aeroporto di Mosca, noi e io siamo, dovevamo aspettare 3 ore o più, e così andando nel grande là, e di no, io vedo, io non conoscevo il suo vescovo personalmente, nemmeno di faccia, soltanto di ascolto. E andiamo insieme, io ero vestito come sacerdote, e là venga al nostro incontro un uomo con la barba e con 2 donne, con il velo. Io ho pensato che fosse un musulmano con sue 2 donne, pensavo. È strano. Io ho passato da noi, e quando è questo uomo passato, il padre ha detto a me, questo era il mio vescovo. Ma io ho detto, lui non ha visto a lei, perché lui stava così. Bene, a Roma. E poi, dopo la mia ordinazione episcopale, il prossimo giorno ho avuto audienza personale con il Papa Benedetto. Io potevo portare questa piccola comitiva dal Papa, io presentavo a ciascuno, io presentavo al Papa, a questi sacerdoti, lui si vestiva come sacerdote ortodosso, al Papa, il Papa Benedetto lo ha molto amabilmente salutato e benedetto. E quando siamo ritornati in casa, lui, questo incontro con il Papa lo ha così profondamente toccato, per questo personalmente. Quando io, nella liturgia bizantina, sapete, quando loro fanno l'offertorio, loro cortano i pezzi del pane e collocano nella patena per l'intenzione che devono celebrare, per il patriarca, per il eccetera, no? Per il vescovo. E lui mi ha detto, e quando io cominciavo a porre la prima particola, mi è venuto in mente per il Papa Benedetto. Gli ha detto, perché si fa sottovoce, non si ascolta, Signore, ricordati del tuo servo Papa Benedetto. Io ho posto questo. E questa particola il sacerdote comunica, e il resto lui mette poi dopo la consacrazione là. E lui mi ha detto personalmente, questa espressione, io questa particola ha menzionato il Papa Benedetto, e questa comunione era più piena che tutte le comunioni nella mia vita, perché ho comunicato con intenzione dell'unione con il Papa, e per questa ragione adesso accetto il Papa anche nel mio cuore. Il Papa di Roma, non il Papa come persona, ma il Papa, no? Differenza, non la persona, ma il Papa come ufficio del Papa. Sì. E così lui sempre faceva. Adesso la sua domanda. Io non ho trovato il Papa Benedetto dopo la rinuncia, no. Perché per me è molto triste questo fatto. Io penso che lui non doveva rinunciare. Per niente, per nessuna causa. Meglio morire come martire, dare sulla vita. Non capisco questo. Per me è un enigma, ma è negativo, certamente. Noi vediamo tutte le conseguenze, no? Anche la grande confusione, i due papi, no? E per me, e non è secondo la teologia, certo che uno che non è più papa, e non è più papa, abbiamo trovato un papa, non due. La Chiesa non ha due capi, è monarchia. E lui si veste e fa il titolo di nuovo come papa, nome e titolo e attributi. È una... non corrisponde alla realtà e fa una confusione. Con tutto l'amore che io ho con Papa Benedetto, no, questo è un errore. E penso che lui deve soffrire per questa situazione, adesso la confusione che abbiamo nella Chiesa. Usted está en contacto con los cardenales, obispos que han escrito Rosubia, las correcciones filiales hace poco. ¿Saben qué pasa en el próximo cónclave después de esto, de este caos que hay? ¿O piensan, o ya están trabajando previamente para el cónclave? Yo conozco bien el cardenal Burke y el cardenal Brandmüller. El último diciembre yo era a Roma. Io ho fatto una conferenza, il cardinal Brandmüller era, prima della conferenza io l'ho parlato con lui in tedesco, e io ho detto a lui: Eminenza, io la congratulo per il suo coraggio di aver firmato le dubbia. E il cardinale mi ha guardato con molta tranquillità, ha detto: questo non era coraggio, era il mio dovere. Che bello, con tutta la tranquillità, non era coraggio. Sono d'accordo con questo. Ma certamente i nemici della Chiesa già preparano il prossimo conclave, Cleavo, per avere lo stesso spirito di l'attuale, o cosa ancora più radicale ancora. Perché il male Non si ferma lì in un momento. La tendenza del male è sempre essere più male, no? Più radicale. Come anche il buono, noi ci facciamo il buono e la santità, vogliamo sempre avanzare nell'amore di Dio, nella santità, no? Il buono. Così il male, è chiaro. E le ultime nomine cardinalizi mostrano tutto, no? Le nomine cardinalizi di questo pontificato sono estremamente evidenti, no? Monsignor, usted cree que se va a hacer la corrección formal? Come? Usted cree que se va a hacer la corrección formal? Dobbiamo pensare che effetto avrà questo, no? Per l'effetto. Penso che umanamente parlando non avrà nessun, per Papa Francesco stesso, nessun effetto. Anzi, forse lui sarà ancora più contrario, no? Di questo punto di vista umano, non avrà, per la causa stessa di correggere il Papa, lui non si sentirà, lui si sentirà provocato e forse reagirà in modo analogo. Come essere provocato o offeso al suo modo, no? Di questo punto, ma una correzione, se si farà, dovrebbe essere per il bene della Chiesa intera, specialmente per i fedeli, vista questa tutta confusione che ha causato Amoris Laetitia e che è in Amoris Laetitia stesso. Mi ripeto, è evidente, non si può interpretare Amoris Laetitia in modo ortodosso, è impossibile, alcuni. No, è impossibile. E se io uso la mia ragione, se non uso la mia ragione, io faccio spiegazioni artificiali, io posso tutto interpretare in modo artificiale, tutto, anche il contrario. E per me non è evidente. Se io uso la mia ragione, il buon senso, dobbiamo usare anche il buon senso. Il buon senso. Non è possibile, specialmente non dico di tutto il contenuto, ma di quelle specifiche, sì, sì, sì. Piccole cose, ma piccole ma pericolose, bombe che fanno esplodere. Más cuestiona los principios de la moral. Esattamente. È molto più profondo. Porque ma è profondo. Se io cambio los principios de la moral, si aplica a tutta la moral. Esattamente. La moral cristiana, esattamente. Non la moral matrimoniale. Esattamente. E questo è l'articolo del professor Seifert che era. Chiaro. Ma ritornando alla sua questione, una correzione, come dico, deve portare un aiuto a questa grande confusione nei clero, nei fedeli specialmente, di queste questioni doctrinali inerenti in Amoris Laetitia e disciplinare, perché la disciplina è connessa alla dottrina. Non possiamo dire come Cardinal Casper dice: non tocchiamo niente della dottrina, soltanto facciamo pastorale. Ma è impossibile, perché è connesso. E per questo io penso che i vescovi, specialmente come vescovi, noi non possiamo semplicemente constatare questo e fare niente. È impossibile per me. Per questo noi tre vescovi del Kazakistan abbiamo fatto in gennaio scorso un appello pubblico, forse voi conoscete, avete letto. Abbiamo fatto in gennaio un appello pubblico a tutti i fedeli di pregare perché Papa Francesco proibisce in modo inequivoco la comunione ai divorziati secondo la disciplina tradizionale della Chiesa. Così abbiamo formulato, con alcuni argomenti, con tre pagine di argomenti perché. E questo abbiamo fatto perché non possiamo essere zitti. Era in gennaio, dopo i dubbi, ma io sapevo che dubbi saranno, ma non sapevo quando appariranno. Per questo io ho preparato questo testo già in novembre di questo. Ma dicendo tra noi, io prima ho preparato questo testo come appello direttamente al Papa Francesco, pubblico, non come un appello alla preghiera, ma al Papa stesso. Gli chiedo, Santo Padre, con tutto il rispetto, eccetera, di proibire queste cose. Io ho andato dal nunzio di postrarle questo testo un giorno prima che io planeggiava. Il nunzio era molto scioccato. Lui no, era buona persona adesso, questa attuale, ma era, no, non si può fare questa una sfida al Papa pubblica. Ho detto: non è una sfida, è una richiesta a lui. Ma deve fare prima privatamente e poi pubblicamente. Sì, se fosse d'accordo, io dico privatamente. Ma privatamente è quasi senza esito, senza effetto, no? Perché non riceviamo nessuna risposta. Perché noi come conferenza episcopale abbiamo fatto una lettera alla Santa Sede, pubblica, ufficiale, non pubblica, e quasi come i dubbi. Già un mese dopo l'Amoris Laetitia, tutta la nostra conferenza episcopale, unanime, abbiamo mandato tramite il nunzio, segreteria di Stato, tutto. Il nunzio ha detto: abbiamo tutte le vostre lettere trasmesse. In un mese dopo Amoris Laetitia, diciamo adesso già un anno e mezzo, e sapete quando abbiamo mandato questa lettera? quasi come i dubbi, perché soltanto doveva rispondere sì o no. Abbiamo così formulato come cardinali. E io ho detto ai miei confratelli vescovi: vedrete, non riceveremo una risposta. E fino ad oggi, un anno e mezzo, non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Bensì che il nunzio ha detto che è stato trasmessa, perché per via ufficiale dell'annunziatura, il segreteria di Stato, abbiamo avuto tutte le conferme. E si è già pubblica questa carta? No, era una carta delle conferenze episcopali, non ufficiale, no, non pubblica, ma non si pubblica. No, non si pubblica gli atti delle conferenze episcopali, no, no. E questo, ma e per questo io ho detto annunzio, ma non abbiamo ricevuto risposta. No, lei deve fare questo. E dico d'accordo, mando al Papa privatamente. E ritornato in casa, ho telefonato al cardinal Burke e gliel'ho detto al mio proposito, e lui ha detto: ma eccellenza, dopodomani pubblichiamo i dubbi. E così ha detto: ma sarebbe non necessario da mia parte, perché sarebbe doppio. Sì, sì, sì. E per questo in gennaio abbiamo pubblicato questo, non come appello al Papa, ma appello ai fedeli, una inversa. E adesso la sua questione della correzione formale, io penso che i vescovi dovrebbero fare una specie di reazione a questa situazione, che sempre più si fanno applicazioni, io direi non soltanto interpretazioni, applicazioni eterodosse di Amoris Laetitia in varie conferenze episcopali. I diocesi, sempre più, diciamo, sempre più stiamo constatando che nella Chiesa Cattolica si introduce il divorzio. De facto abbiamo adesso il divorzio nella Chiesa Cattolica. De facto. E la profanazione dell'Eucaristia. No, sì, questo ancora, ma io dico adesso specificamente del divorzio. Profanazione erano sempre, ma adesso... Sì, sì. La sacralità del matrimonio, del vincolo matrimoniale. La professione. Sì, sì, chiaro, ma io dico, se soltanto parleremo del divorzio, sì. E noi vescovi constatiamo questo e siamo zitti e non possiamo dire facciamo una interpretazione ortodossa dell'Amoris Laetitia, è completamente irrealistico per me. E adesso termino. E per questo io penso che i vescovi devono, come membri del collegio episcopale, perché siamo membri del magistero, i sacerdoti non sono membri del magistero, i vescovi sono parte del collegio episcopale, quasi collegi del Papa, come dice il Vaticano II, siamo colleghi del Sommo Pontefice, non siamo impiegati del Papa, ma colleghi canonici. E per questo noi come collegi del Papa dobbiamo alzare la nostra voce pubblicamente. Io penso che una forma di correzione, io sono più inclinato di fare, se faremo una correzione non diretta, una correzione implicita. Io credo che ne preguntassi, la correzione? Sì, la correzione formale, secondo me, io sono più in favore di fare una correzione implicita. Come? Una specie di fare una pubblica professione delle verità immutabili concernente il matrimonio. Breve, non deve essere grande. Queste verità che la Chiesa ha sempre insegnata ininterrottamente, enumerando questi, quelli che sono nell'Amoris Laetitia sofisticamente quasi negati, fare questa enumerazione. La Chiesa ha sempre creduto o insegnato questo. Una specie di silabus. No, non sarebbe stato troppo. Breve. Questi, perché sono soltanto poche sentenze che sono nell'Amoris Laetitia quasi per me al limite dell'ortodossia. Si deve brevemente numerare queste sentenze, diciamo verità, che la Chiesa ha sempre insegnata e creduta, e poi aggiungere anche la disciplina, non soltanto la dottrina, perché questa è la furbizia di loro, anche dire che la disciplina di non ammettere peccatori pubblici ufficialmente all'Eucaristia, specialmente in questo forma, in questo caso i bigami o adulteri, e contraddice tutta la tradizione della Chiesa ininterrotta. Di nuovo pubblicamente riaffermare questo davanti a tutta la Chiesa, almeno questo è il nostro dovere, e forse aggiungere, non direttamente al Papa, perché questo sarebbe una correzione diretta, formale, ma aggiungere, forse, non lo so, più o meno così, che leviamo le nostre preghiere fervidi a Dio, che dia al Papa tutte le donne necessarie per riconfermare tutte queste verità e la disciplina in modo più chiaro più possibile, senza mezzo di dubbi e ambiguità. Così una formulazione più o meno così, e così questo sarà una forma di, penso che, correzione implicita, indiretta al Papa. E allo stesso tempo i fedeli di tutta la Chiesa di nuovo ascolteranno la verità di sempre, no? E come noi dobbiamo confessare questo. Che ufficialità adesso? Sono un obispo che lo hace aisladamente, o tendría che ponerse de acuerdo a las conferencias episcopales o distintos obispos? Sì, sì, adesso è difficile perché sapete che la maggioranza dell'episcopato oggi è intimidato, sì? Impaurito. Usted percibe che hay una reacción, perdón, para dentro de los obispos individualmente o conferencias episcopales, una reacción buena? Por ejemplo, escuché del episcopado polaco, puede ser, del episcopado, se sienten presionados, uno habla en particular con algunos obispos y están en buena postura, pero no se animan porque está la situación. Sí, i polacchi, io spero che loro dovevano fare, i vescovi polacchi, adesso in questo autunno, norme applicative di amore letizia. Beh, vedremo che cosa loro faranno. Ma io temo un pochino l'episcopato polacco, e sono in parte opportunisti. Non lo so se loro faranno. O faranno altri, non lo so. Spero che loro fanno principi chiari. A conferenze episcopali penso che non hanno questa unità di fare. In questo momento nessuna del mondo che conosco. Penso che no. Di conferenze episcopali, di essere così uniti, di fare questo, no. Kazakistan sì. Perché noi non siamo stati tutti questo appello, non, nemmeno la nostra conferenza, non tutti hanno ci appoggiato, soltanto tre vescovi. Quello appello in gennaio che abbiamo fatto. Sì. Una pregunta de conciencia canónica, sacerdotal. En alguna diócesis argentina ya están presionando a los sacerdotes para que apliquen directamente la interpretación de la Amoris Laetitia que hizo el Papa Francisco. Uh-huh. Un sacerdote, si no aplicara esas normas, podría ser sancionado con quitarle las licencias sacerdotales para el ministerio. ¿Qué debe hacer el sacerdote? ¿Recluirse en su casa y dejar el ejercicio público del ministerio? ¿O manejarse ya a nivel clandestino como hacen o como han hecho los sacerdotes, por ejemplo, de la fraternidad San Pío X? No, en este caso, si un vescovo domandará a mí o al sacerdote de dar la comunión a adulteri evidenti, sí, yo no puedo aceptar esto. Uh-huh. Yo debo ser persino pronto, come San Giovanni Battista e San Thomas Morus, di dare la mia vita per il matrimonio. No, sicuro. Però non soltanto il mio ufficio ecclesiastico, di perdere il mio ufficio ecclesiastico, ma di dare la mia vita. Questo è San Giovanni, i santi che hanno vissuto. Perché il cardinale John Fisher e Thomas Morus di fatto loro hanno dato la sua vita, non soltanto per il primato di Papa, se si legge attentamente, storicamente, per il matrimonio di Enrico VIII, che era adulterio. Me refiero al ejercicio, es claro que nadie lo va a hacer, pero me refiero al ejercicio del, sí. del ministerio sacerdotal. Sí, mejor sí, renunciar a todo. Si yo renuncio, noi dobbiamo essere pronti di dare la nostra vita, come Santa Teresa di Avila ha detto, che era pronta di dare la sua vita per ogni piccola verità cattolica. E questa era grande verità. Continuiamo confessando, continuiamo celebrando misa, eso pregunto. Io dico, io devo rifiutare questo persino con il costo di essere proibito di celebrare e di confessare. Questo è evidente, come io posso tradire quello? No. Il padre Javier dice, se l'obispo me suspende a divino. Sí. Por haberme negado capital, a dar la comunión sí. a pecadores públicos. Sí. Lo que el padre Javier pregunta sí. es, ¿debo acatar la suspensión e irme a mi casa sí, esa es la pregunta. O debo ejercer clandestinamente? Sí, adesso entiendo. Yo pienso que esta suspensión sarebbe inválida, porque es contra la ley divina, es inválida para mí. E io penso che il vescovo, il ministero episcopale e anche papale non è dato di Cristo per danneggiare la fede divina rivelata, che è il matrimonio indissolubile, è una verità rivelata. E per questo io devo, in questi casi, sono casi estremi, che mai qua, forse nell'arianesimo ci sono stati casi nel IV secolo, onde i sacerdoti, anche Santo Atanasio era escomunicato dal Papa Liberio per causa della sua fedeltà, immaginate? Sì. Ma io, secondo la mia conoscenza, Santo Atanasio ha continuato di celebrare in Alessandria. Monsignor, questo lleva il pensamento ad algo che può essere un po' più pericoloso o grave. La persona o l'obispo che toma una medida che non è canonica, ¿hasta en qué medida pierde la legitimidad de su ministerio? No. Si eso lo trasladamos al Santo Padre con una herejía formal, se pone la cuestión teológica de saber si en el ministerio. Es difícil. Ma forse per concludendo la sua domanda, io penso che in questo caso la sospensione sarebbe invalida, e almeno privatamente io penso che con tutta la buona coscienza io celebrerebbe la messa. Forse la si celebra la messa, pronto, ma cominciare a fare un ministero clandestino, questo non penso che non farebbe io, perché continuiamo ad essere una chiesa gerarchica e visibile, no? Privatamente sì, io penso che celebrerebbe la messa per il buono della chiesa, ma dopo fare un apostolato clandestino, diciamo illegale, no? San Atanasio lo pensava lo mismo. Sì. Può essere, qui è nel limite di decisione di ciascuno. Sì. Come più o meno sarebbe la situazione delle Fraternità San Pio X, la situazione che aveva Monsignor Lefebvre. Sì. Monseñor, lo que está pasando parecería inscribirse en una crisis más grande, sí. De manera tal que no cabe pensar que solo porque venga otro papa más lúcido, más coherente, esto se arregla mágicamente, digamos, ¿no? ¿Usted piensa eso? No creo que usted tenga, no sé si tiene dotes proféticos, pero ¿cómo piensa que evoluciona la vida de la Iglesia hacia el futuro? Ma prima forse rispondere a questioni e dopo a sua. Io penso che non perdere l'ufficio, no, perché altrimenti caderemo in una confusione e nessuno sa se questo vescovo ha ancora la giurisdizione o no, o se questo no, questo sarebbe un caos. Penso che anche se questo vescovo è evidentemente un eretico e lui per, finché lui non è sostituito dal Papa, lui rimane vescovo. Io devo in qualche modo rispettarlo come vescovo. E adesso la questione di un Papa eretico è molto difficile. Io penso che io non sono tanto d'accordo con la tesi di Bellarmino. È una tesi che non ha una grande, come si dice, tradizione ininterrotta nella Chiesa. E questo dobbiamo sempre guardare bene. Quelle opinioni che hanno una storia o una che durano, no? per secoli, un consenso quasi, un consenso vero, ma questo non ha un consenso vero, cioè quella tesi di Bellarmino. Ma anche se leggiamo Bellarmino, Bellarmino ha scritto che lui non crede che questo sarebbe, ma soltanto come pura ipotesi. Questa è la differenza. Se leggiamo Bellarmino, lui non credeva che questo sarebbe possibile, ma come puro, diciamo, discorso logico. Ma in pratica è difficile, poi chi può constatare? Prima sedis nemine judicatur. E lui è il Papa, altrimenti cadremo in un'altra eresia, il conciliarismo episcopalismo, dopo, secondo la quale il collegio episcopale o cardinalizio o il concilio può giudicare il Papa e sopra il Papa. Questo no, questo sarebbe, cadremo in un altro pericolo. E qui dobbiamo semplicemente, in questi casi, se un Papa proferirebbe cose erronee, che già hanno fatto, no? Nella storia. Papa Onorio, Papa Giovanni XXII, e poi, ma poi Dio risolverà, ha risolto il caso. Penso che in questo caso è un caso che Dio deve risolvere, non noi. E Dio risolverà. In Europa ho ascoltato adesso parlare della invalidez, della possibilità della invalidez dell'elezione di Francisco? No, questo non è serio per me, semplicemente perché anche sarebbe, perché se un me, anche supponiamo che l'elezione di questo Papa fosse stata invalida per non osservazione di certi norme, ma sono norme umane, non sono norme divine, no? E le norme per l'elezione del Papa sono norme umane, diritto umano, non diritto divino, e per questo non sono assoluti. Le norme morali sì, sono assoluti, 10 comandamenti, ma questo sono un diritto positivo, non diritto divino, e per questo sono limitati. Per questo io penso che, non soltanto io, ma alcuni autori tradizionali, che in caso di un'elezione formalmente invalida, sì, nel momento che tutto il collegio, sì, cardinalizio riconoscerà pubblicamente questo come Papa, sarà una convalidazione sanatio in radice, una certa sanatio in radice. Sì. E questo è più logico e più chiaro, perché altrimenti cadremo in quel tempo dove avevano antipapi, 2-3 papi, eccetera. Perché hubo elezioni illegali nel passato, Sì, abbia. Hubo elezioni contrariando la legge positiva. Sì. Per esempio, un esempio era nel secolo XI. Era un papa pessimo, veramente impossibile, non mi ricordo il nome di lui, ma era una figura molto pessima. E poi il futuro papa Gregorio VII, Santo Gregorio VII, che era Ildebrando, si chiamava, Ildebrando, per evitare il male per la Chiesa che questo papa sta facendo, ha consigliato a un cardinale buono, suo amico, di comprare il papato con denaro, con simonia, di questo pessimo papa, sapendo che questo papa era così avaro. Che, e così è stato fatto, gli ha comprato il papato e questo papesimo ha rinunciato, ha ricevuto il denaro, ha rinunciato e quello buono cardinale amico di senza vodka è divenuto il suo buon amico, diciamo, penso che era Gregorio VI. E per questo Gregorio VII ha preso il nome di Gregorio VI, quello che era, ma era una cosa simoniaca. Ma per simonia in sé è invalida la simonia. Così questo erano tanti casi simili. E per questo è una successiva sanazione. Ahora justo en este momento está Monseñor Felé aquí en Buenos Aires. Está acá en Buenos Aires, sí. Y, ¿usted tiene contacto con la gente de la Fraternidad San Pío X? Sí, porque yo era ¿sabe cómo está la situación? Yo era visitatore apostólico de loro. ¿Cuál es la situación de la Fraternidad? Due anni fa erano quattro vescovi visitatori nominati della Santa Sede. Io ero uno di loro. Io per Benedetto o per Francesco, sì. E io avevo una buona impressione, ho visitato Francia e gli Stati Uniti, io avevo una buona impressione in generale, nelle loro case, i seminari. Io ho parlato con Monsignor Felé e io ho proposto una formula di unione, diciamo, di intesa. Che lui ha accettato, il signor Felé, e in quel tempo anche l'Ecclesia Dei ha accettato. Era una formula molto generosa, soltanto l'essenziale, non quelle cose che loro non possono accettare, che non sono necessarie per essere cattolico. E sempre nel passato, per essere cattolico, gli eretici sismatici dovrebbero fare soltanto una professio fidei, e quello e soltanto accettare quelle verità che la Chiesa ha insegnato definitivamente. Non è stato mai chiesto più in passato. Adesso si chiedono di anche accettare tutto quello che dice il Magistero continuo, diciamo, quotidiano. Ordinario. Quotidiano, questo è troppo, mi sembra, questo si dovrebbe cambiare in futuro, questo è impossibile. E per questo la Fraternità San Pio dice, non può accettare questo, chiaro. E poi abbiamo fatto questo lavoro e adesso purtroppo il cardinal Müller, prima di essere dimesso, ha scritto una lettera completamente rovesciando tutto il nostro lavoro che abbiamo fatto 2 anni, ha rovesciato. Di nuovo ritornato a queste esigenze maximaliste. È chiaro, è impossibile per loro. Ma poi, dopo un mese, il nuovo prefetto, la Daria, ha scritto un'altra lettera, un po' più cauta, cambiando le esigenze di Cardinal Müller, ma in un mese, 2 lettere, così alle volte contraddittorie, e adesso il Monsignor Felé mi ha detto, lui non lo sa che cosa, è perplesso perché abbiamo lavorato 2 anni e anche il Monsignor Pozzolo ha mostrato una formula quasi che abbiamo elaborato, molto generosa. E Monsignor Felé ha ricevuto il testo in quel tempo, 2 anni fa, e adesso, rovesciando, è difficile la situazione adesso. Difficile. Javier. Había hecho una pregunta, no sé si usted la querrá contestar, en la que le decía que lo que está pasando se inscribe en una crisis mayor, y que difícilmente esto se corrija simplemente porque Dios provee a un Papa sabio, santo, virtuoso, sí, etc., ¿no? Y si usted pensaba eso, ¿cómo imaginaba que evolucionaba la iglesia en el futuro inmediato. En fin, usted no, eso sería profecía, ¿no? Sí, yo pienso que dobbiamo vedere nella storia della Chiesa. Erano sempre tempi difficili, ma speciali, come per esempio la crisi ariana. E là durava 60-70 anni più o meno la crisi ariana, era una confusione quasi generalizzata, ma la fede, la purezza della fede era conservata nel popolo, sensus fidei, che lei ha scritto sensus fidelio. E questo era stata conservata e poi sono rimasti quel tempo di 4 secoli soltanto alcuni vescovi realmente si poteva contare nelle dita delle mani che erano fedeli, ma il popolo anche. E poi i papi che sono venuti, poi Papa Damaso dopo Liberio, che era molto chiaro e molto forte, e poi grazie a Dio tutti i papi seguenti erano molto vigilanti concernente la dottrina, no? Fino a Onorio, VII secolo. E io penso che oggi la vera fede, la fedeltà, sarà conservata piuttosto nei laici, nei piccoli. Per questo mi piace tanto questa che abbiamo fatto questi giorni passati, questo congresso. Il signor Cristelli sta qui? Sì, sì. Sì, il signor Cristelli organizzato. Io ho avuto tanta gioia di essere questi 3 giorni con la maggioranza, erano giovani, no? Di essere visto, persino bambini. E questo per me è il futuro. E questo fenomeno io vedo dappertutto dove viaggio, quasi in ogni paese, giovani, famiglie giovani, giovani seminaristi, sacerdoti. Voi siete piuttosto la giovane generazione di sacerdoti, voi qui, con eccezione di padre Sainz, che è il più anziano, ma dobbiamo anche essere anziani per trasmettere la torcia della fede ai giovani. Ma e sapete, questo per me, che Dio usa i piccoli per rinnovare la Chiesa, userà anche nel nostro tempo, non lo so come, ma userà, già prepara il terreno, perché questo edificio del liberalismo, modernismo, che sta già governando la Chiesa quasi 50 anni dopo il Concilio, e io lo chiamo la nomenclatura ecclesiastica, modernistica, loro hanno il potere, no? Loro hanno i mezzi, la burocrazia, ma non hanno la fede. Ma noi abbiamo la fede e questo vince tutta la burocrazia e nomenclatura. San Atanasio, no? Che sempre la Iglesia, nosotros nos quedamos. Esattamente. E io penso che questa nomenclatura, questa diciamo amministrazione ecclesiastica liberale non ha frutti, è sterile nel fondo, non produrrà frutti e dovrebbe cadere, no? Noi prepariamo il terreno con l'aiuto della grazia di Dio, anche se siamo peccatori e con tutti i nostri limiti, ma con tutta buona volontà e con il desiderio della fede retta possiamo preparare il terreno. Io alle volte in modo comico paragono questo come quelli, come si chiamano questi animali sotto la terra che fanno topi. Non topi, quelli che fanno questi canali. Siamo questi topi e poi fanno cadere tutto l'edificio liberale. E risurgerà un nuovo tempo. Un momento, rispondo. Io penso che anche Dio purificherà la Chiesa con una persecuzione. O una qualche difficoltà esterna al Papa o al cristianità. Forse adesso in Europa con l'Islam, penso, sarà una purificazione forse. E un intervento anche esterno. Sì. Ma un Papa, certamente, effettivamente, sempre nella Chiesa, i Papi erano decisivi. ultimamente erano i papi decisivi di canalizzare, di, come si dice, di canalizzare questo processo di un rinnovamento effettivo della Chiesa. E per questo, per me, sarebbe più importante pregare per il miracolo del prossimo conclave. È prossimo già. Miracoli accadono, dobbiamo credere nei miracoli. E poi, anche se un Papa sarebbe per miracolo prossimo di tradizione, e uomo di Dio forte, coraggioso specialmente, sarà, io penso, martire. Ma perché i nemici lo uccideranno, certo, se lui comincerà a fare ordine nella Chiesa, come deve fare un apostolo, un Papa. Sarà ammazzato, penso, assassinato, ma sarà martire. Ma sapete che i primi tre secoli tutti i papi erano martiri. Saluto. Tutti i papi erano martiri. Io penso che, ma per questa ragione, un buon papa dovrebbe per la prima cosa fare, anche umanamente, perché nostro Signore ha detto nel Vangelo: dovete essere prudenti come serpenti. Anche prudenti come serpenti, non soltanto semplici come colombe, ma anche prudenti come serpenti. Per questo penso che un Papa buono dovrebbe, secondo me, la prima cosa fare, garantire, sapendo che lui probabilmente sarà martire, garantire che il suo successore sarà nel suo spirito. E per questo dovrebbe fare la prima cosa: non viaggiare, non fare niente di Chiesa, ma occuparsi dei vescovi, della Chiesa stessa. E non fare tante udienze, perché è un perdita del tempo suo, che lui deve essere pastore. Poi per me, prima cosa, lui dovrebbe fare di nomine di cardinali 100% sicuri della dottrina tradizionale. E ci sono, dobbiamo. Anche si può nominare cardinali non vescovi, anche sacerdoti possono essere nominati cardinali. Buoni. E questi gruppo, i molti. E questi, con questo lui umanamente si era garantito che il prossimo conclave sarà in maggioranza assoluta o qualitativa già nello spirito della tradizione. Della tradizione, e eleggeranno il successore di questo supposto Papa martire anche nello spirito suo, e lui farà lo stesso, e così sarà garantita che il capo visibile sarà sempre nella fede retta di un uomo di Dio. Prima cosa. La seconda cosa, lui dovrebbe fare, per me, fare pochi discorsi, pochi documenti, perché siamo quasi, non possiamo digerire tutto questo, no. È impossibile. E applicare il suo tempo per nominare buoni vescovi. Realmente prendere tempo di fare gruppi di informazioni buoni, di cercare buoni candidati episcopali e nominare loro. E poi un buon vescovo, come ha detto il mio vescovo che mi ha ordinato in Brasile, lo ha cambiato tutta la diocesi, la faccia. E poi un buon vescovo cambiare per generazioni la faccia di una diocesi, nel buon senso. E se il Papa sarà anche nel senso del vescovo, il vescovo sarà appoggiato dal Papa ancora più, no? Perché purtroppo in questo nostro tempo, dopo il concilio, io ho conosciuto alcuni casi di vescovi buoni che hanno cominciato a fare una buona riforma, e poi il Vaticano ha in qualche forma diplomaticamente messo un altro che ha di fatto distrutto questo lavoro. Anche qui io ho sentito in Argentina erano casi, ma non soltanto qui ma in altro. E per questo io penso di scegliere buoni candidati di vescovi. Questo era il primo lavoro di un Papa, di lasciare tutte le altre cose, prendersi tempo, e così, se saranno buoni vescovi, saranno buoni sacerdoti. Il popolo è sempre buono, è buono e fedele, il popolo sì, questo sì, ma se avremo buoni vescovi, uomini di Dio, i buoni sacerdoti, e questa sarà la Chiesa rifiorerà. Y decíamos una fórmula buenos obispos y buenos seminarios, me parece, ¿no? Sí, ma, supongo. Con eso empieza la reforma. Sí, sí, buoni sacerdoti vengono di buoni seminari, sí. Chiaro. Para Andrea, sí. Lei potrebbe. Sí, ma faccio in italiano così. Sí, sí. Io vorrei chiederle sul suo pensiero riguardo al ruolo dei papi anteriori a questo, cioè. Sí. Paolo VI, sì. E soprattutto Giovanni Paolo II, perché questa situazione è esplosa adesso, sì. Sì. Però ha dei precedenti, sì. Molto forti, sì. E soprattutto due cose. Prima, la formazione intellettuale, la teologia, sì. Perché ad esempio Rahner, von Balthasar, sì. Addirittura sono precedenti al Concilio. Teilhard de Chardin, uh-huh. Che adesso sono messi nel Magistero Pontificio, però erano già precedenti al Concilio. Sì. Dopo il Concilio, la maggioranza di quelli che avevano vera fede e una buona formazione avevano accolto bene il Concilio. Invece poi c'è stata un'invasione teologica, a partire soprattutto da Rahner e von Balthasar, sì. E questo non è stato adeguatamente capito dalla Santa Sede, perché non ha governato la situazione, sì. Delle università, della formazione dei seminari, sì. E perfino la Congregazione per la Dottrina della Fede, dove il Cardinale Ratzinger è stato 20 anni lì. Sì. E durante questi 20 anni si sono diffuse un sacco di eresie, sì. Che adesso esplodono. Esatto. E dunque sembrerebbe che questa azione non è stata veramente, sì. Efficiente, perché, sì. Adesso non saremmo in questa situazione, esatto. Così critica. Sì. No? Sono completamente d'accordo con l'analisi di padre Andreken. Sì, è vero. Questo è per me, sapete, che... Certamente il Concilio era un catalizzatore, no? Catalizzato, sì. Il modernismo, una occasione propizia del modernismo vero, che abbiamo adesso il frutto quasi pieno del modernismo, che è un relativismo, il modernismo stesso. E come Papa Pio X ha detto, la somma di tutte le eresie, perché relativizza tutto, così finiamo in un naturalismo. Naturalismo, nessuna soprannaturalità, questo è oggi la situazione, il culmine abbiamo, ma quasi lo stesso è un'evoluzione, un sviluppo che era prima del Concilio già, e poi il Concilio per questo anche ha avuto, per questa ragione, ha avuto dei momenti di espressione anche ambigue nelle teste del Concilio, che si potevano usare in questo senso o in altro. E questo mai il Magistero può fare ambiguità, mai. Questo contraddice la natura del Magistero. Per poi fare delle interpretazioni, questo è impossibile, il Magistero deve parlare chiaro. E fino al Concilio il Magistero ha parlato chiaro. Leggete Trento, non ha bisogno di interpretazione, è chiaro, il Concilio di Trento, di Nicea, eccetera. E poi, io penso che questo già era inerente nel Concilio, nei testi, e anche se leggiamo la storia del Concilio, sempre più si riveleranno cose che hanno accaduto durante il Concilio. Queste macchinazioni dei modernisti di portare queste espressioni per fuori. E poi io penso che la più grande sventura era che il Papa Paolo VI e poi gli altri successori non erano vigilanti in queste cose. Gli hanno dato una certa libertà e anche alle volte hanno corretto, alle volte veniva dalla dottrina della fede, qualche teologo è stato corretto, Kuhn, eccetera, ma era poco, perché il veleno era già diffuso quasi generalmente. E poi l'altro, che il Vaticano, la Santa Sede, ha quasi la stragrande maggiorità di nomine episcopali, cominciando con il Concilio, erano candidati liberali, con poche eccezioni. E questo si spiega. Se un vescovo inclina al modernismo, lui lui piace queste dottrine nell'insegnamento, nel suo seminario, nella sua facoltà teologica, e lui protegge. E poi, ma io penso che l'errore era piuttosto nel Vaticano, nella Santa Sede, di nomine episcopali. E questo fa tutto. Se un vescovo buono, lui chiuderà questa facoltà. Come è stato nel mio caso, il vescovo che mi ha ordinato in Brasile. Lui ha chiuso queste cose della teologia di liberazione, chiuso, pronto, e ha fatto una nuova facoltà teologica di buona dottrina che abbiamo fatto nella nostra congregazione, e la diocesi è rifiorita di tante vocazioni. Ma se si mette un vescovo, anche se non è completamente liberale, ma né caldo, né freddo, né tibio, diplomatico, lui lascia quello e comincia il veneno. Se tu lasci il veneno operare, allo stesso tempo tu lascia operare la salute, il medico, no? Ti curo ma ti do un pochino di veneno, ti lascio, sono tollerante. Facciamo, queste vescovi ha detto sì, sono pio, ma posso lasciare questo professore eterodosso anche. E questa è la situazione, e questo ha prodotto, perché il veneno, il virus è più forte, sempre si propaga, no? Uh-huh. E questo è frutto di questa propagazione del virus, oggi abbiamo quasi il culmine di questo, no? Uh-huh. E per questo ritorno al mio discorso, dal punto di vista umano o strategico, o di quello che Nostro Signore ha detto, essere prudenti come serpenti, un Papa deve semplicemente nominare buoni, coraggiosi vescovi. E loro fanno il suo mestiere, il suo lavoro nelle diocesi, e purificheranno queste eresie. E non bisogna la Santa Sede in questo caso, la congregazione delle dottrine della fede, non bisogna, il vescovo deve fare questo, lui deve ritirare il licenza di insegnamento. Questo è il lavoro del vescovo, prima, non della Santa Sede. La Santa Sede deve intervenire se il vescovo non lo fa. Ma perché hanno nominato questo vescovo che non lo fa? E questo è il nostro problema. E penso che era una grande infiltrazione dei nemici della Chiesa, probabilmente, io dico, probabilmente filomassoniche in Vaticano, anche tra i vescovi, i cardinali che lavorano là, che hanno promosso una politica di nomine episcopali così, e che hanno distrutto di fatto la fede. Se io penso che dentro di queste azioni che dovrebbero essere per onorare los obispos, habría que cambiar las universidades pontificias, porque la mayor parte de los obispos del mundo estudian ahí. Claro. Ahí es donde aprender. Claro. Claro, y Roma no es intervenido. Y perché io sono stato in Brasile, e là è stato quella famosa Pontificio Università di San Paolo, completamente libertera, come dicono i brasiliani, libertera, libertazia. Il cardinale Arns era arcivescovo di San Paolo, Arns, grande, Evaristo Arns, e lui proteggeva questi, no? E la Santa Sede ha detto, oh sì, non possiamo fare niente, perché è un cardinale, non vogliamo fare una guerra, dobbiamo tollerare. Io, quando sono stato in Brasile, il mio vescovo mi ha detto tutto questo. Sì, per la Gregoriana e tutta la sua cosa. Sì, in Roma, la Gregoriana anche. Il problema non è se cambiano un'università in Brasile, il problema è quando, bajo las narices del Papa, mi explico, nella città di Roma, se dice che las unidades pontificias qualsiasi cosa, esattamente, e questo è più facile di cambiare. Esattamente, se deve, il padre André Eggen ha un'esperienza di Gregoriana. E si deve cominciare a Roma, ma io ripeto, se il Vaticano stesso già è da 50 anni o più infiltrato di filomassonici, monsignori, vescovi e cardinali, questo è il problema. Padre Fabrizio. Hace un tempo atrás un sacerdote polaco hizo una investigación muy seria y profunda, empezó con Polonia, pero se dio cuenta que el problema era internacional y extendió su investigación. Y él habló en ese informe que luego hizo de una herejía, habló de una homoherejía, sí, ¿no? Sí. ¿Qué tan grave le parece a usted que es el tema dentro de la iglesia? Sí. Io ho sentito di questo sacerdote polacco. Non ho letto tanto di questo studio di lui. Può essere che questa omoeresia, questi chierici, vescovi, cardinali, che sono, non escludo che anche in Vaticano sono questi, come si dice, gruppi, lobby omosessuali. Adesso già nell'ultimo tempo si è rivelato qualche caso, no? E qualche caso di nunzi e di collaboratori di nunziaturi che fanno pedofilia, eccetera. Ma forse questo è una parte dell'iceberg. Non conosco la realtà stessa, ma già questo è grave, no? E ripeto, ma sapete che i nemici della Chiesa hanno fatto i comunisti, ma i massoni fanno lo stesso, i massoni, la massoneria, che loro si conoscono che un clerico è omosessuale, lo faranno poi, diranno ti faremo fare carriera se tu collabori con noi. E così lui farà carriera, questo chierico omosessuale, e loro dicono se tu dirà qualche cosa su di noi faremo pubblico tutto. Così lui sta già, io sono con, è molto probabile che alcuni cardinali, sacerdoti, i vescovi sono compromessi, come se dice blackmail in English, extorsionati. E questo i nemici fanno molto bene. O conoscono un caso che è accaduto nella vita di anche non si dovrebbe, non sempre omosessuale, ma fosse un altro errore morale grave nella vita passata, no? Non sempre omosessuale, sì, ma sì, altra. Sì. E possono prendere questa conoscenza di se tu non ci obbedisci di non fare questo, noi faremo un grande chiasso mondiale, il tuo nome aprirà dappertutto, no? Fray Guido Casilio, un amico. Sì, padre. Una parola di Fatima, qui abbiamo un esperto in Fatima. Ah. Il cardinal Cafarra aveva rivelato che Sor Lucía le había dicho que la batalla final sería sobre el matrimonio y la familia, ¿no? Sí. Primero, si usted conoce algo, digamos, algún dato que tal vez no sea público, ¿no es cierto? Y por otro lado, creo que todos tenemos en el corazón si esta no es la batalla final, ¿no es cierto? Si hay signos tan claros, ¿no es cierto? Decía de una persecución. Aquí en Argentina es evidente que la providencia divina retiene esa persecución porque está todo dado, ¿no es cierto? La masonería, sí, el marxismo, sí, como para producirse una persecución muy seria a la iglesia, ¿no? Uh-huh. Como en el 36 en España. Sí. ¿Cómo actuar, ¿no es cierto? ¿Cómo, sí. Sì, io penso che dobbiamo credere nelle parole della Madonna che ha detto il mio cuore immacolato trionferà. Questo dobbiamo veramente prenderci a serio questa promessa nel mezzo di questo che viviamo e umanamente la nostra situazione è deprimente, diciamo, scoraggiante. Ma le parole della Madonna, grazie a voi. Sì. Le parole della Madonna sono incoraggianti per noi nel fine il mio cuore immacolato trionferà e noi potremo collaborare, contribuire al trionfo dell'immacolato cuore Grazie. Con la nostra umile fedeltà, quello che facciamo, no? Ognuno di voi nel suo posto, anche se fa rimanendo fedele alla fede immutabile, già è un contributo noi tutti, no? Rimanendo fedeli o trasmettendo ai fedeli, ai sacerdoti, la dottrina buona, la morale, il culto divino, la spiritualità buona, noi tutti facciamo collaboriamo al trionfo del cuore immacolato. Io credo nel trionfo del cuore immacolato. Ma un momento, già termino. Ma la Madonna ha detto che il Papa consacrerà la Russia al mio cuore immacolato, poi la Russia si convertirà e sarà dato agli uomini un tempo di pace. Lei, padre, conosce questa sequenza di formulazioni. Queste formulazioni, ripeto, è quasi, ho citato, penso che letteralmente, di questa. Il Papa consacrerà la Russia, ma dopo di questo, come effetto di questa consacrazione, si dice la Madonna, la Russia si convertirà e poi, come conseguenza, sarà un tempo di pace. No? E penso che questo deve essere ancora fatto, perché si dovrebbe essere fatto ancora la consacrazione esplicita della Russia al cuore immacolato da parte del Papa nelle modalità in cui la Madonna ha chiesto, con tutto l'episcopato, almeno morale l'episcopato, non aritmetico, ma morale, un'unione morale dei vescovi con il Papa nell'atto di consacrazione della Russia. La Russia, perché anche se vediamo che la Russia già sono segni della conversione, Putin, poi per esempio in 25 anni dopo il caduto del comunismo, durante 25 anni in Russia sono stati costruiti o riformati o ricostruiti, immaginate quante chiese, 20.000 chiese, è un segno certamente di una certa conversione, che prima era quasi niente, adesso 25, o 1.000 monasteri, 1.000, che erano nel tempo di 24 monasteri forse. E questi sono già segni di una conversione, ma finché la Russia rimane schismatica, e è schismatica, non è una conversione. Come voi potete parlare di una nazione convertita se è schismatica? E per questo, secondo me, la conversione della Russia significa che la Russia, il patriarca di Mosca, si riunirà con la sede di Papa, con la sede di Roma. E là sarà la conversione. Dopo sarà dato la pace e dopo la Madonna dice il mio cuore immacolato trionferà. Così io vedo questo. Vediamo questi dolcetti, un po' di addolcire la nostra vita nella valle di lacrime. La verdad que nos da gusto poder hablar con parresía, con franqueza, ¿no? Poder con un obispo. Yo un obispo católico difícil. Ma vi racconto una bella storia. Il mio primo vescovo, dove io ero ausiliare, era molto buono, adesso in pensione. E lui era cresciuto nella clandestinità. E quando per la prima volta è venuto a Roma per un sinodo dei vescovi, questo è il mio vescovo, lui ha già sentito di cose strane in Europa, del liberalismo, modernismo, ho sentito, perché era in clandestinità. È venuto a Roma e al sinodo di là era un cardinale che lo ha salutato. Ah, eccellenza, viene della Kazakistan, oh. E questo cardinale cominciava a presentare se stesso a questo vescovo. Io sono cardinale tale e tale, io sono prefetto di questo e questo, io sono membro di questa congregazione, e ha tutti i suoi titoli enumerato, il cardinale. Finito i titoli del cardinale, il mio vescovo lo ha guardato e ha detto: Eminenza, lei è cattolico? È l'unico titolo importante. Lei è cattolico? E lui ha detto al cardinale: tento di essere. Un signore el tema del sensu fidelium que usted decía hace un momento, ¿hay posibilidad que el sensu fidelium permanezca sin la vida de la gracia, sin los sacramentos? En un cierto periodo sí. Por ejemplo, nostri cattolici in Unione Sovietica, dove io sono cresciuto, mio genitori, miei nonni, noi dovevamo vivere alcuni anni senza sacramenti, senza niente. Ma noi abbiamo fatto, nella mia infanzia per esempio, questa era la più bella ricordazione della mia infanzia, a domenica abbiamo fatto una specie di culto familiare, domenicale, nella famiglia. Pregato, la mamma ha letto una parte del catecismo, il rosario e comunione spirituale. Questo era il nostro culto di domenica, senza sacerdoti. E queste preghiere in casa e questo catecismo che i nostri genitori ci hanno dato ci ha preservato il senso spirituale. Tanti anni senza sacerdoti. Y en un caso así, sí. ¿Usted cree que un sacerdote suspendido no debería ejercer el ministerio ahí? Sì, adesso ritorniamo di nuovo a quel problema, a quel problema che di fatto è un problema delle fraternità San Pio X o di Monsignor Lefebvre, no? Nel fondo è questo il problema. È una cosa molto difficile per me. Io penso che se parliamo francamente, come si dice, in paresia, o tra noi, non pubblicate questo in internet, per carità, no. Altrimenti sarò misericordiato. Subito. quello che oggi ho parlato. Cioè. Ma io ho parlato oggi con reverenza di Papa Francesco, se lui ascolterà questo. Sì, io penso che sempre più quando io analizzo la situazione della Chiesa e la storia della Chiesa insieme, dobbiamo allargare la nostra vista. E penso siamo troppo presi in questi tempi, o il Concilio Vaticano II, e un concilio di tanti altri. Per me fosse un concilio non così tanto importante. Dobbiamo allargare la nostra città, vedere la Chiesa di 2000 anni, allargare. E questa è la fede, la voce costante di 2000 anni, la voce dei santi. E poi, e questo prima che io volevo dire, e quanto più grazie, sufficiente. Quanto più vedo questa crisi, no? Adesso come padre Andrei che ne ha detto si è rivelato, questo che era preparato. Quanto più questo vedo di distanza, tanto più mi sono inclinato di vedere la figura e l'opera di Monsignor Lefebvre positive, nel fondo. Come San Atanasio era comunicato alle volte, perché nel fondo quello che lui voleva è quello che noi adesso vogliamo, di conservare la purezza della fede senza ambiguità, senza questo falso ecumenismo che era purtroppo praticato e adesso abbiamo visto il falso in questi fenomeni di Assisi e che era orribile, certamente. E poi la liturgia, la messa. Io penso che la storia ancora parlerà, io non sono profeta, ma io penso che la storia della Chiesa parlerà, forse dopo la nostra vita, che è stato un merito storico che grazie alla questa resistenza non canonica di Monsignor Lefebvre abbiamo la messa tradizionale oggi quasi in tutta la Chiesa, storicamente, perché senza questa resistenza non sarebbe. E quando Monsignor Lefebvre ha fatto le consecrazioni episcopali illecite, grazie, ha fatto queste consecrazioni episcopali illecite, mi ha detto questo personalmente il padre Bisic, il primo superiore generale della fraternità di San Pietro, padre Bisic, che era segretario di Monsignor Lefebvre. Padre Bisic mi ha detto questo, che alcune settimane dopo le consecrazioni episcopali, Cardinale Ratzinger ha detto al padre Bisic queste parole: queste consecrazioni episcopali sono una felix culpa. Felix. Parole di Ratzinger. E lui ha detto: noi siamo colpevoli, anche il Vaticano, per queste consecrazioni episcopali illecite. Noi siamo, che dovevamo essere più aperti perché potrebbe essere lecita. Soltanto di queste due espressioni di Ratzinger, io deduco che forse è stato in qualche modo provvidenziale queste consecrazioni episcopali, perché in sé, nell'antico codice canonico, nell'antico, una consecrazione episcopale senza mandato pontificio non era escomunicazione, era soltanto sospensione dell'ufficio, dell'esercitare l'ufficio episcopale, non escomunicazione. Così il nuovo codice ha introdotto l'excomunicazione, late sentenzie, così si vede la Chiesa antica non ne considerava in sé una consecrazione episcopale per sé schismatico, ma anche tanti moralisti tradizionali prima del Concilio hanno detto che per essere schismatico non è di essere disobbediente al Papa, non la disobbedienza stessa crea un schisma, ma lo schisma crea una convinzione, un'intenzione di separarsi canonicamente dal Papa e di dichiararsi canonicamente indipendente, come fanno fatti ortodossi, per esempio, che non menzionano il Papa nel canone della Messa e non vogliono essere in unione con il Papa. Questo, dicono tutti i teologi tradizionali, è un schisma. Ma Monsignor Lefebvre non aveva queste intenzioni di essere senza Papa, lui voleva con il Papa, lui soffriva profondamente di non poter essere riconosciuto e sempre menzionava il Papa nel canone. E persino Monsignor Fellè ha espulso della fraternità San Pio X sacerdoti sedibacantisti, ha espulso, anche un segno che lui non aveva una mentalità schismatica propriamente, no? Sì, dobbiamo essere molto cauti e giusti anche, no? E vedere tutto questo nella storia, nelle categorie della storia della Chiesa, che la Chiesa era più in qualche senso generosa prima del Concilio. E questo, io penso, in questo senso Monsignor Lefebvre ha visto la situazione della necessità straordinaria della crisi della Chiesa, come forse adesso lei ha menzionato, lei, e ha deciso nella coscienza di, per bene di tutta la Chiesa, per in qualche modo salvare la Messa, perché tutta la questione delle febbre era con Paolo VI, i Giovanni Paolo II, non il Concilio, Vaticano II, ma la messa articola. Io ho letto tutti i documenti perché io facevo la visitazione apostolica. Non era soltanto la messa. Il Monsignor Felè ha detto tutto il problema, e sono quasi literale, cito il Monsignor Felè, tutto il problema tra la Fraternità San Pio X e la Santa Sede è la messa. Se dateci la messa, e non ci hanno dato a lui, soltanto con limiti, no? E poi in qualche senso, dopo le consecrazioni episcopali, il Papa Giovanni Paolo II era costretto quasi di fare l'Ecclesia Dei e di creare le comunità di, o di lasciare di, sì. E poi Papa Benedetto ha fatto questo molto proprio il Summorum Pontifico, no? Che era tutto, dobbiamo vedere come conseguenza anche storica. E per questo la sua domanda, non lo so se in caso continueranno queste misure dittatoriali dei vescovi liberali di introdurre la eresia nella Chiesa, dobbiamo resistere, e forse in questi casi dobbiamo ogni caso vedere concreto, no? Di esercitare il ministero ecclesiastico anche in forma clandestina, no? Per il bene delle anime. Ma io dico, è pericoloso, dobbiamo sempre essere molto attenti di non cadere poi in una, sapete, in un autocefalismo, autocefalismo ecclesiastico, e molto spesso è un pericolo, poi il sacerdote diventa un po' diviene indipendente, sì, sì. Un piccolo papa per sé, deve essere molto attento. Certo. O cercare un altro vescovo. Cercate un altro vescovo, chi vi dà le... Si sono buoni vescovi? Studieremo russo. No, sì, potete dire a questo vescovo, eccellenza, io non faccio questo, che lei mi ha detto questa eresia, io mi vado da un altro vescovo, pronto. E se lui non vi dà le litere, diciamo, escardinazioni, fate con un buon vescovo, che forse vi darà sul segreto, in forma, perché ci sono matrimoni clandestini, anche se potrebbe essere una incarnazione clandestina.